salutiamo, turista t'accogliamo, da noi. Malta nostra in questo dì, ti sorride con da bel mar, molte cose con piacere, qui si fa sperar. Non è grande, lo sappiamo, ma grande assai è nell'amor, e tu stesso lo vedrai dappertutto gli occhi. Il ben che tu vorrai, tu vorrai.